Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione, tutto in lacrime e prostrato davanti alla casa di Dio, un'assemblea grandissima di Israele si adunò attorno a lui, uomini, donne e fanciulli. Il popolo piangeva dirottamente. Allora Secania, figlio di Echiel, dei figli di Elam, prese a dire a Esdra: «Abbiamo prevaricato contro il nostro Dio, sposando donne straniere prese dalle popolazioni locali. Ma a questo riguardo rimane ancora una speranza per Israele. Su via, stringiamo un patto con il nostro Dio di rimandare tutte le donne straniere e i figli nati da esse, secondo il consiglio del mio Signore e di quanti tremano per il comando del nostro Dio. Si faccia secondo la legge. Alzati, perché questo compito spetta a te. Noi saremo con te. Fatti coraggio e agisci». Allora Esdra si alzò e fece giurare ai capi dei sacerdoti, dei leviti e di tutto Israele che avrebbero agito in questa maniera. Essi giurarono. Poi Esdra si levò dal cospetto della casa di Dio e andò nella camera di Giovanni, figlio di Eliasib. Pernottò colà senza mangiar pane né bere acqua, giacché faceva cordoglio per l'infedeltà dei reduci dall'esilio. Si proclamò un ordine in Giuda e a Gerusalemme per tutti i deportati, affinché si radunassero a Gerusalemme, e se qualcuno non fosse venuto entro 3 giorni, tutti i suoi beni, secondo il consiglio dei capi e degli anziani, sarebbero stati votati all'anatema, e lui stesso sarebbe stato escluso dall'assemblea dei reduci dall'esilio. Entro 3 giorni, tutti gli uomini di Giuda e Beniamino si radunarono a Gerusalemme. Era il 20° giorno del 9° mese. Tutto il popolo prese posto sulla piazza della casa di Dio, tremante per l'avvenimento e per le piogge veementi. Si alzò il sacerdote Esdra e disse loro: «Voi avete prevaricato, sposando donne straniere, e avete così accresciuto la colpa di Israele. Ma ora date gloria al Signore, Dio dei nostri padri, e compite la sua volontà. Separatevi dalle popolazioni locali e dalle donne straniere». Tutta l'assemblea rispose, dichiarando a gran voce: «Sì, noi dobbiamo agire secondo la tua parola. Tuttavia, il popolo è numeroso ed è la stagione delle piogge. Non ci è possibile restare all'aperto, né peraltro questo è lavoro di un giorno o due, perché siamo stati in molti a peccare in questa materia. Rimangano qui perciò i nostri capi in luogo dell'intera assemblea, e tutti coloro che hanno sposato donne straniere nelle nostre città vengano poi in tempi determinati assieme agli anziani e ai giudici di ciascuna città, fino a che s'allontani da noi l'ira terribile del nostro Dio per questa cagione. Soltanto Jonata, figlio di Asael, e Jaczeia, figlio di Tikva, vi si opposero, appoggiati da Mesullam e dal levita Sabetai. Ma i deportati si comportarono come era stato detto. Il sacerdote Esdra scelse alcuni capifamiglia, secondo il loro casato e tutti designati per nome. Il 1° giorno del 10° mese iniziarono le sedute per esaminare la questione, e il 1° giorno del 1° mese si terminò con tutti coloro che avevano sposato donne straniere. Si trovò che avevano sposato donne straniere tra i figli dei sacerdoti, dei figli di Giosuè, figlio di Josadac, e tra i suoi fratelli, Maaseia, Eliezer, Yarib e Godolia. Essi hanno promesso con giuramento di rimandare le loro donne e hanno offerto un ariete in espiazione della loro colpa. Dei figli di Immer, Canani e Zebadia. Dei figli di Karim, Maaseia, Elia, Semaia, Jechiel e Uzzia. Dei figli di Pascur, Elioenai, Maaseia, Ismaele, Natanaele, Josabad ed Eleasa. Degli appartenenti ai Leviti, Josabad, Simei, Chelaia, chiamato il Chelita, Petachia, Giuda ed Eliezer. Dei cantori, Eliasib. Dei portinai, Sallum, Telem e Uri. Tra gli israeliti, dei figli di Paros, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazaro, Malchia e Benaia. Dei figli di Elam, Mattania, Zaccaria, Iechiel, Abdi, Jeremot ed Elia. Dei figli di Zattu, Elioenai, Eliasib, Mattania, Jeremot, Zabad e Aziza. Dei figli di Bebai, Giovanni, Anania, Zabbai e Atlai. Dei figli di Bani, Mesullam, Malluk, Adaia, Iasub, Seal e Jeramot. Dei figli di Pacat Moab, Adna, Kelal, Benaia, Maaseia, Mattania, Bezaleel, Binnui e Manasse. Dei figli di Karim, Eliezer, Iscia, Malchia, Semaia, Simeone, Beniamino, Malluk, Semaria. Dei figli di Casum, Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse e Simei. Dei figli di Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaia, Bedia, Cheru, Vania, Meremot, Eliasib, Mattenai, Yaasai. Dei figli di Binnui, Simei, Selemia, Natan, Adaia. Dei figli di Azur, Sasai, Sarai, Azareel, Selemia, Semaria, Sallum, Amaria, Giuseppe. Dei figli di Nebo, Yeiel, Mattitia, Zabad, Zebina, Yaddai, Gioele, Benaia. Tutti questi avevano sposato donne straniere e rimandarono le donne insieme con i figli che avevano avuti da esse.